Fish24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. È la settimana degli Oscar. Per chi ci ascolta il sabato mancano poche ore, chi ci ascolterà poi in replica saprà già com'è andata, ma noi in questo momento ancora siamo in attesa di sapere chi si aggiudicherà queste statuette, un momento che è sempre molto atteso. Magari la prossima settimana andremo a curiosare tra i discorsi, questi acceptance speech. A me piace tantissimo il discorso con cui l'attore, il regista, insomma il grande personaggio del cinema, ma riceve questa statuetta. Non lo so, io faccio sempre le prove con la spazzola davanti allo specchio, non si sa mai. Siamo andati però a sentire cosa hanno detto tre protagonisti che saranno appunto sul red carpet e chissà forse anche sul palco degli Academy Awards tra qualche ora. Noi siamo andati a riascoltare cosa hanno detto quando hanno vinto il Golden Globe. Non facciamo necessariamente il tifo per loro, però insomma, soprattutto del primo io sarei contentissima. Io purtroppo sono un po' di parte. Sentiamo cosa ha detto quando ha ricevuto il Golden Globe Colin Firth. Well, thank you, Hollywood Foreign Press. Getting through the mid-stage of your life with your dignity and your judgment intact can be somewhat precarious, and sometimes all you need is a little bit of gentle reassurance to keep you on track. And I don't know if this qualifies as gentle reassurance, but right now this is all that stands between me and a Harley Davidson, so I owe you a very great debt. At a time in my life when I truly appreciate the value of longevity in my relationships, Harvey Weinstein, and many of the good things that have happened in those 20 years have been because of Jessica Kolstad, Chris Andrews, but the very best thing of all has been Livia and all the beautiful things she's given me. I think I can cope with just about any age as long as I still see her. So thank you so much, everyone. Io poi sono romantica e sentirete che in tutti questi brevi estratti ho messo il ringraziamento al compagno, alla compagna, al marito. Lo fa anche Colin Firth, che ha questo modo di parlare assolutamente straordinario, questa voce e questo accento inconfondibili, anche se noi ormai in Italia lo sentiamo sempre parlare in italiano. Inizia ringraziando la Hollywood Foreign Press, perché appunto Golden Globe, che sono così assegnati. Dice appunto thank you Hollywood Foreign Press, sappiamo lui ha vinto per il famoso discorso del re, e poi dice una cosa molto giusta, insomma, benché li porti benissimo, anche lui ormai è over 50, e quindi dice getting through mid stage of your life, the mid stage è la fase centrale della tua vita, con dignity and judgment intact, mantenendo la tua dignità e la tua capacità di giudizio intatti, beh, è sempre somewhat precarious, cioè qualche, insomma, è difficile, si è lì un po' che si cammina sul ghiaccio, e quindi uno ha bisogno di queste gentle reassurance, un modo stupendo per dire, insomma, delle gentili rassicurazioni, come nello stesso tempo, come dire, capisco che il Golden Globe non è il premio dell'UNICEF o chissà quale premio per chissà quale benemerenza, però io mi accontento di questo e mi fa sentire bene. Grande ironia, grande autoironia poi sulla faccenda della mezz'età, perché spesso, soprattutto gli attori di Hollywood, ma non solo loro, impazziscono e fanno delle cose un po' fuori di testa. Sì, dice praticamente, dice appunto con un humor un po' inglese, questa statuina è tutto quello che sta, all that stands between me and a Harley Davidson, come dire appunto, che forse se mantengo questa dignity and judgment, forse non devo ridiventare una specie di hippie di ritorno e comprarmi una Harley Davidson per fare il finto giovane. Fa tutti i ringraziamenti di rito alle persone che sono state accanto a lui, una in particolare. Sì, però c'è anche questa cosa molto bella che I truly appreciate the longevity in my relationship, altro modo stupendo di dire la longevità delle relazioni, ma in ogni senso, no? Nomina Harvey Weinstein, questo produttore famosissimo, però Marta, hai ragione, soprattutto nomina Livia, la sua sposa italiana, e dice I can cope with just about any age. To cope with vuol dire riuscire a avere a che fare con, non cooperare, ma venire a termini con, venire a patti, accettare. Quindi posso accettare qualsiasi età, as long as I can still see her, finché io posso vedere il suo viso, vederla, insomma, più romantico di così. E sarà stato l'unico romantico? Ebbene no, perché ascoltiamo cosa ha detto sempre ai Golden Globe Natalie Portman. Truly the most wonderful experience of this whole reaction to the movie has been to get to spend time with so many of the people in this room. It has been the most meaningful thing that I will take away from this post-movie experience. I also want to thank you for the opportunity to say hi to my grandma Bernice in Cincinnati, who's watching at home. I hope You're having a drink, Grandma, enjoying this. I thank you for bringing my mom into the world. My mom is the most wonderful person. She's here. And my father is also the most wonderful person. Thank you for bringing me into this world and giving me such a wonderful life. Thank you to Benjamin, who is helping me continue this creation of creating more life. Thank you. Anche qui ringraziamenti a tutte le persone a cui vuole bene, le persone anche con cui probabilmente ha lavorato, perché fare un film è anche un'esperienza umana di relazioni umane. Sì, dice quindi che it was the most wonderful experience. Sappiamo che quando un aggettivo è molto lungo come wonderful, per fare il superlativo non possiamo aggiungere il suffisso finale, dobbiamo mettergli most davanti, quindi wonderful è lungo per gli standard inglesi, quindi the most wonderful, la più fantastica delle esperienze. È stata quella di aver passato del tempo con delle persone alle quali si è affezionata, anzi che restano forse il ricordo più importante di Black Swan, del film. Quindi di nuovo, the most meaningful, perché anche meaningful, cioè pieno di significato, perciò significativo, un aggettivo molto lungo per gli standard inglesi, gli mettiamo il most avanti, quindi la più significativa delle esperienze, di nuovo, di questo that I will take away from. To take away from vuol dire che mi porterò dietro, che ricaverò, che ricorderò. Quindi di tutto questo, di questo circo che si è scatenato intorno al film, che è Cigno Nero, Black Swan, che io ho visto, insomma, è più bella lei del film, mettiamola così. Beh, lei è anche molto bella. Devo dire che appare poi, evoca Natalie Portman, un personaggio irresistibile, che è sua nonna. Io quasi me le immagino, perché lei dice, nonna, spero che tu abbia preso un drink per superare questa emozione. Dice, tu che mi guardi da Cincinnati, grandmother, nonna, e grandma, che è l'abbreviazione, così come grandfather, grandpa è l'abbreviazione, e spero che you're having a drink, che un drink non è semplicemente una bibita, cioè quando si dice you're having a drink stai bevendo qualcosa di come minimo un po' alcolico, anzi magari pesantemente alcolico. La nonna che si fa il cicchetto, lei la ringrazia perché ha messo al mondo la mamma, che è una persona straordinaria, e anche il papà è una persona straordinaria, e poi c'è la persona probabilmente più straordinaria di tutte, con Natalie Portman e gli occhi a cuoricino. Ringrazia Benjamin, che Benjamin è tra l'altro uno dei protagonisti del film, è il coreografo del film ed è anche quello che fa il ballerino. Chi di voi ha visto il film è quello a cui a un certo punto il cattivissimo Vincent Cassel, il coreografo nel film, risponde, ma tu andresti a letto con questa ragazza? E lui praticamente fa segno di no, e poi naturalmente invece in realtà si sono molto piaciuti, è il papà del suo bambino. Infatti lei gli dice thank you because you took for continuing this creation of creating more life. Quindi è bello anche questo, no? Anziché dire, insomma, per essere il padre di mio figlio, per far parte di questo processo di creazione di nuova vita, perché lei è incinta, ci siamo dimenticati di dire questo. Beh, insomma, Natalie Portman ha ringraziato mamma e papà, ma soprattutto Benjamin. Andiamo ad ascoltare un'altra protagonista, chissà se anche lei ringrazierà il marito, che peraltro è molto conosciuto, candidata per The Kids Are All Right, I Ragazzi Stanno Bene, Annette Bening. I'm very proud to be part of this very special film about two women who are deeply in love and trying to keep their family together. My partner, Julianne Moore, first. Thank you to Lisa Cholodenko. Thank you for asking me to do the picture. It was a labor of love. To be able to unite that with a moment like this is truly phenomenal. Thank you, Mia Wajcicka, Josh Hutcherson, our kids, and Mark Ruffalo, our awesome sperm donor. Thank you to my children for all of your love and support, and to the 1962 winner of the Golden Globe for Most Promising Actor, my husband, Warren Beatty. Partiamo dal fondo, da questo ringraziamento anche buffo, perché lo ripetiamo, alla cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2011 lei a un certo punto dice io ringrazio un premiato del 1962, uno si chiede perché. È suo marito, qui scopriamo finalmente come si pronuncia, se qualcuno aveva dei dubbi, io li avevo, ed è appunto Warren Beatty e non Beatty o Betty o come uno potrebbe sbizzarrirsi. Quindi Warren Beatty è il suo husband, sappiamo che lei è riuscita ad accalappiare questo scapolone che ha avuto chissà quando quante donne, mogli, amanti, compagne, poi lei l'ha sposato, ma anche lei è bellissima e affascinante, soltanto che lui ha qualche anno in più, perché nel 1962 vinse sempre i Golden Globes come Most Promising Actor, cioè come promessa del futuro. Poi in effetti di film ne ha fatti tantissimi, però all'epoca era una giovane promessa. Una promessa mantenuta, quindi. Tanti ringraziamenti di Annette Bening. Anche qui la sensazione che spesso si ha in questi speech di una famiglia attorno al film. Sì, poi comincia, non so chi di voi l'ha visto, comunque la storia di due donne, quindi che hanno una relazione, due lesbiche, hanno una relazione omosessuale e hanno anche due figli con un donatore di sperma, ma lei dice queste due persone sono deeply in love, che vuol dire essere profondamente innamorate. To love somebody, amare qualcuno, to be in love with somebody, essere innamorati di qualcuno, qui addirittura profondamente innamorate, che fanno questo sforzo, è tutta la storia del film, to keep their family together, tenere insieme la famiglia. E lei ringrazia Julianne Moore, che è la sua co-star, la sua coprotagonista, ma ringrazia anche gli attori che fanno i due bambini e l'attore che fa appunto questo sperm donor, che è Mark Ruffalo, che viene definito awesome Mark Ruffalo. Bisogna un po' che piaccia al tipo, perché lui è un po', insomma, non proprio un magrissimo, non proprio uno troppo in forma, però effettivamente io sono tra quelle a cui piace molto, e anche Annette Bening, che lo definisce fantastico, perché awesome è proprio, quando lo si dice poi di un uomo, vuol dire che mi fa impazzire. Tifo anch'io per Mark Ruffalo. Lei ringraziava anche la regista, l'ha ringraziata anche perché l'ha coinvolta proprio nel progetto del film. Quindi to ask me to do the picture, sappiamo che picture vuol dire quadro, vuol dire fotografia, ma vuol dire anche film, quindi per avermi chiesto di fare questo film, che era anche qui un'espressione molto bella, labor of love. Labor in questo caso è un parto d'amore, quindi è stato un film venuto fuori, cresciuto in un'atmosfera di grande amore, e entrambe le attrici hanno sempre detto di aver molto creduto in questo progetto. In effetti il film secondo me è molto bello e affronta una tematica che sicuramente è attuale, che è quella appunto delle adozioni da parte di coppie omosessuali e dei problemi che possono esserci, ma che poi potrebbero esserci in qualsiasi coppia. L'importante è to keep their family together, loro tengono unita la famiglia. Tengono unita la famiglia, e anche lei è come se dicesse: ho fatto un film che parla d'amore perché alle mie spalle ho love and support dei miei figli e naturalmente di questo fantastico husband, che era un 1962 winner. Ma quanto amore nei discorsi dei candidati ai Golden Globe, che poi sono riusciti ad avere le loro statuette, chissà come andrà tra qualche ora. Nella cerimonia di assegnazione di quelli che sono poi i premi più pesanti dell'anno, i premi Oscar. Si conclude qui la nostra puntata di English 24. Vi ricordo il nostro appuntamento con English 24 in edicola. Ringrazio Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.